Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, oggi inizia un mese molto importante per tutte le donne, sorelle, mamme, compagne, mogli, amiche, per tutti coloro che hanno a cuore la loro salute. Ottobre, lo sappiamo, è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la neoplasia più frequente in assoluto per incidenza nella popolazione femminile, ma è una delle neoplasie che offre le più alte possibilità di guarigione e se identificata in tempo utile, affrontata con le cure adeguate, può essere superata con successo nella quasi totalità dei casi. La formula, se così possiamo dire, l'abbiamo imparata, la conosciamo: più il tumore è individuato in fase iniziale, più probabilità ci sono di affrontarlo con terapie ben tollerate e di sconfiggerlo. Ecco allora che e conoscere quali sono le situazioni e anche le caratteristiche individuali che possono esporre ad un rischio maggiore di malattia aiutano a programmare meglio le strategie di difesa, mentre gli strumenti di controllo, le visite specialistiche, gli esami con eco e mammografia diventano proprio dei nostri alleati con cui dobbiamo prendere confidenza. Fare tutto ciò che è possibile, insomma, per tutelare la propria salute è un atto d'amore che ogni donna deve compiere verso se stessa, e aiutate la donna che avete a fianco a farlo. Ecco, creiamo delle alleanze. Il primo passo, come sempre, è di essere ben informati, diventare consapevoli. Oggi ci aiuta il dottor Oreste Gentilini, che saluto e ringrazio per aprire con noi questo mese così importante. Dottore, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti e se posso in particolar modo le nostre ascoltatrici. Assolutamente. Primario dell'unità operativa di chirurgia della mammella e responsabile della Breast Unit all'ospedale San Raffaele di Milano. Dottor Gentilini, iniziamo subito dalle buone notizie. Non bisogna abbassare la guardia, ma oggi il tumore della mammella può farci meno paura. È vero e credo che lei abbia riassunto perfettamente la situazione. Certamente, anche se rimane sempre il tumore più frequente nel genere femminile, la prognosi è generalmente in costante miglioramento. Quindi adesso veramente, se riusciamo a effettuare una diagnosi precoce, quasi il 90% delle donne può risolvere in maniera definitiva il problema. E questo è stato raggiunto per diversi motivi, certamente perché le terapie sono migliorate, ma anche perché sono in atto una serie di misure preventive. E quindi, se possiamo, io direi che la prevenzione in questo caso salva la vita, salva la tua vita, quindi dobbiamo fare tutto quello che possiamo, che adesso sappiamo, per ottenere questi risultati. Cosa possiamo fare allora, dottor Gentilini, se la prevenzione salva la vita? La prevenzione è rappresentata da una prevenzione primaria, quindi abbiamo certamente la possibilità di evitare la comparsa di questo evento, e abbiamo la possibilità di farlo attraverso alcuni comportamenti. Certamente è importante non fumare, certamente è importante moderare il consumo di alcolici, e certamente è importante avere uno stile di vita che sia uno stile di vita sano, se possiamo dire in questa maniera, quindi che contenga esercizio fisico eseguito regolarmente, con un'alimentazione che sia il più sana possibile, ed evitare il sovrappeso. Questo consente di ridurre l'incidenza del tumore al seno, alcuni dicono tra il 20 e il 30%, quindi abbiamo veramente la possibilità di essere efficaci in termini di prevenzione primaria. E poi abbiamo la prevenzione cosiddetta secondaria, che vuol dire che non impediamo la comparsa di questo evento, ma lo possiamo diagnosticare precocemente, e anche questo salva la vita, perché, come è già stato detto, se riusciamo a fare una diagnosi precoce, la maggior parte, quasi tutte, le persone riescono a risolvere in maniera definitiva questo problema. Non solo, può essere raggiunto questo risultato anche attraverso terapie che siano meno invasive, meno pesanti. Quindi quello che lei ci sta dicendo, dottor Gentilini, è: non abbiate paura. Noi un po' di paura ce l'abbiamo sempre quando dobbiamo fissare una data del controllo, invece andiamo. Questo è veramente un gesto di amore e di salute che compiamo verso noi stessi. Quindi dobbiamo vincere quella resistenza che ti fa rimandare l'appuntamento, dire non ho tempo, ma intanto non a me. Dottore, da quando, come e perché? Ci sono due possibilità, insomma. Ci sono innanzitutto gli screening che vengono, e questa è una cosa straordinaria, che vengono promossi dalle regioni, che però in realtà non coprono tutta la popolazione, generalmente coprono le persone, le donne che vanno dai 49, 45, a volte 40 anni, fino ai 70 anni, però in realtà purtroppo il tumore al seno colpisce anche diverse fasce di età, non solo quelle più anziane di 70 anni, ma anche quelle più giovani. Quindi in realtà, oltre agli screening promossi dalle regioni, noi suggeriamo anche che ci sia uno screening spontaneo, individuale, quindi che le donne aumentino il proprio livello di consapevolezza e che si sottopongano regolarmente dei controlli. Quello che noi suggeriamo è di cominciare dai 30 anni in su, quindi in sostanza facendo almeno un'ecografia e una visita senologica, durante la quale si può personalizzare il programma di controlli successivi. Poi certamente dai 40 anni in su è bene eseguire questi controlli, che prevedono anche la mammografia, in maniera regolare una volta all'anno. Però noi suggeriamo, a partire dai 30 anni, di fare almeno una valutazione una volta all'anno con un'ecografia e una visita, perché purtroppo, anche se oggi dobbiamo parlare di buone notizie, non possiamo dimenticare il fatto che almeno il 10% di tutti i tumori della mammella vengono diagnosticati in donne che hanno meno di 40 anni, e quindi vuol dire che 5-6 mila donne in Italia ogni anno purtroppo ricevono una diagnosi di questo tipo al di sotto dei 40 anni. Quindi non si può abbassare la guardia nemmeno in questa fascia di età, e nemmeno oltre i 70 anni, perché comunque sia generalmente si pensa che dopo quest'età i rischi si riducano. In realtà non è vero, perché aumentano, perché l'età è uno dei principali fattori di rischio, quindi più aumenta l'età e più aumentano i rischi. Dottore, voi sapete molto di più rispetto al passato di questa neoplasia. Quali sono, secondo lei, proprio le scoperte che hanno cambiato? Abbiamo parlato di prevenzione, di quanto sia importante, e adesso parlerei della diagnosi, dell'approccio diagnostico e terapeutico nei confronti di questo tipo di neoplasia. Allora, io parlerei come prima cosa dell'approccio multidisciplinare, perché certamente questa malattia può essere sconfitta in un numero elevatissimo dei casi se viene curata in maniera multidisciplinare, quindi con un gruppo di persone, con un gruppo di esperti che mette al servizio della donna le proprie conoscenze. E questo può essere svolto laddove ci siano dei percorsi ben organizzati. Questo in sostanza si chiama Breast Unit, quindi dove esiste un'organizzazione di questo tipo. Questo tipo di organizzazione comporta dei risultati che sono dei risultati tangibili, perché ci sono dei dati che vengono dal Nord America oppure dal Nord Europa che ci dicono che le persone che hanno un tumore al seno, che vengono seguite in un ambiente di questo tipo, quindi dove esiste un ambiente strutturato, quindi in sostanza una breast unit, hanno una riduzione della mortalità del 18% rispetto alle donne che purtroppo non hanno questo tipo di possibilità. Quindi è importante che le donne vengano seguite dove esistono dei professionisti esperti e dove esistono dei percorsi organizzati. Dopodiché ci sono tante cose che ultimamente soprattutto hanno modificato la situazione. Ad esempio, una delle prime che mi viene in mente è la possibilità comunque di ridurre il numero di donne che ricevono una chemioterapia. Adesso esistono dei test di profilazione genomica della neoplasia che ci consentono di identificare le donne nelle quali è opportuno eseguire una chemioterapia, perché offre un vantaggio da un punto di vista prognostico. Questo è molto importante, perché in un 50, a volte 70% dei casi abbiamo la possibilità di evitare di eseguire delle chemioterapie che molto probabilmente non sarebbero vantaggiose per la paziente. Ultimamente sono anche stati identificati dei farmaci nuovi, innovativi, che hanno la possibilità di darci dei risultati straordinari. Quindi abbiamo la possibilità di curare in maniera personalizzata le nostre pazienti, in accordo a quelle che sono le caratteristiche singole della persona, ma in accordo a quelle che sono anche le caratteristiche della neoplasia. Quindi possiamo usare i farmaci in maniera mirata. E poi c'è un'altra cosa straordinaria, che è l'utilizzo dell'immunoterapia. Questo viene utilizzato principalmente adesso ancora in progetti di studio, viene utilizzato principalmente in trattamenti che si fanno prima dell'intervento, ma i risultati sono veramente molto molto incoraggianti, quindi la speranza concreta è che questo tipo di farmaci possano essere utilizzati. I test genetici, questo ci aiuta a ottenere maggiori informazioni. L'informazione è tutto, se conosciamo bene le caratteristiche della singola persona abbiamo la possibilità di perfezionare e personalizzare il trattamento, in questo caso anche da un punto di vista chirurgico. Dottore, grazie. Allora, noi donne dobbiamo fare la nostra parte, stile di vita e poi i controlli. La ricerca è andata avanti. Buon mese della prevenzione a tutte le amiche che mi stanno ascoltando e a tutte le persone che vogliono e hanno a cuore la loro salute. Dottor Gentilini, noi ci sentiamo presto e le auguro una buona giornata. Grazie, altrettanto a tutti voi. Noi invece ci sentiamo prestissimo dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Un saluto e buona giornata da Nicoletta. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.